Letture di Radio 24. Se un tempo era la figura dell'inventore ad emergere nelle richieste di brevetto, a partire dal primo Novecento l'invenzione diventa quasi un sinonimo di marchio di fabbrica. In un contesto che diventa sempre più internazionale, cresce l'importanza dei brevetti italiani registrati presso il Patent Office americano. Ed è proprio su questi che si concentra Vittorio Marchis nel suo libro 150 anni di invenzioni italiane. Il 29 ottobre 1908 a Ivrea, nella fabbrica in mattoni rossi, venne fondata la Ingia C. Olivetti e C. Alla preparazione del primo modello di macchina per scrivere lavorò un gruppo di una ventina di persone, guidato dallo stesso ingegner Camillo, che alla fine del 1908 compì un nuovo viaggio negli Stati Uniti per raccogliere informazioni utili al progetto. Dopo quasi 3 anni, il primo modello, la M1, venne presentato all'esposizione di Torino del 1911. Ai primi anni di difficoltà seguirono finalmente i successi. Dopo un secondo modello, la M20, nel 1922 nacque a Ivrea la Fonderia e nel 1926 la OMO, Officina Meccanica Olivetti, per la costruzione di macchine utensili. Il primo manifesto pubblicitario venne affidato al pittore Teodoro Wolf Ferrari, che raffigurò Dante Alighieri intento a indicare con un atteggiamento autorevole una M1. Altri famosi slogan furono questi: «Se i nostri padri potessero vedere la macchina da scrivere Olivetti, griderebbero al miracolo». «La macchina italiana che nulla ha da invidiare alle macchine straniere». E ancora «Italiano, tu che hai combattuto, sofferto e vinto, non preferire la macchina straniera all'italianissima Olivetti». E infine, la storia dell'Italia vittoriosa si deve scrivere con la macchina Olivetti. Avete ascoltato alcuni passaggi dal libro di Vittorio Marchis, 150 anni di invenzioni italiane. Codice edizioni, 456 pagine, 29 euro. Letture di Radio 24. Perché quando ci sono i saldi abbiamo la tendenza a moltiplicare gli acquisti? La risposta è nella stessa regione del cervello legata al piacere sessuale. Agli shopping addicted, fissati con le televendite, il professor Eldar Shafir suggeriva di mettere le carte di credito in freezer dentro un contenitore per il ghiaccio e godersi lo spettacolo. Un consiglio perfetto per i tempi di crisi. Ma perché a metà prezzo compriamo il doppio o il triplo? Perché ci facciamo incantare dalle svendite? Ecco la ragione scientifica. La sola anticipazione di un guadagno monetario eccita la stessa regione del cervello, il corpo striato per la precisione, che si attiva per i peccati di gola, il desiderio sessuale e anche la cocaina. Assolviamoci, non è colpa nostra, è un impulso antico e invincibile. La neuroeconomia è arrivata alla conclusione che le decisioni di acquisto sono emotive e che il risparmio c'entri poco o niente. Vi è mai capitato di entrare in un negozio di jeans, provarne 20 e uscire senza comprarne uno? Sì? Eccesso di offerta. I saldi spazzano via la perplessità. Quando ci sono meno opzioni, decidere diventa più facile. Ma c'è anche l'effetto esca. Tra due televisori sceglieremo quella che costa meno, ma fra tre, da 400, da 680 e uno da 900, sceglieremo il secondo. Il più caro fa da esca per convogliare l'interesse su quello di medio prezzo. E poi c'è l'effetto ancora. Finiti i saldi, perché non andiamo all'outlet dove durano tutto l'anno? E infine c'è perfino l'effetto gregge. Succede in borsa, si compra e si vende perché lo fanno gli altri e vale anche per i saldi. Si partecipa al folle rito delle svendite tutti insieme, più o meno appassionatamente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Roselina Salemi, Spese folli? Colpa della psiche, da La Stampa del 2 gennaio. Mentre da una parte si chiedono sempre più sacrifici agli italiani, dall'altra si moltiplicano gli sprechi per la burocrazia. Una produzione giuridica selvaggia, tipica espressione delle società dove c'è scarsa fiducia sociale, come scrive Angelo Panebianco in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. C'è qualche economista in grado di calcolare quanti punti del PIL e da quanto tempo si mangia la nostra emergenza più importante, ma anche più misconosciuta di tutte, ossia quella giuridico-amministrativa? C'è qualcuno che ha voglia di riflettere su quanto costi al paese l'uso patologico che facciamo delle norme amministrative? Prendete il caso degli appalti pubblici, in qualunque settore. È vero o no che la complessità e l'ambiguità delle norme che li governano è tale che l'uso dei ricorsi è diventato la regola, anziché, come dovrebbe essere, l'eccezione? E quanto costa alla collettività, in denaro e tempo, quest'utilizzazione smodata del ricorso ai ricorsi? Non c'è ambito in cui un cattivo uso del diritto non produca danni. Il dottor Antonio Pileggi, funzionario di un comune della provincia di Pistoia, mi scrive: «Nel mio ufficio ho un faldone soltanto di ciò che è stato scritto e detto negli ultimi mesi su come calcolare il costo del personale negli enti locali, così da rispettare il limite del 40% sulla spesa corrente, con il rincorrersi e il contraddirsi dei pareri e delle interpretazioni, a partire dalla Corte dei Conti. Nell'ultimo anno ho acquistato 3 versioni aggiornate del codice dei contratti, testo unico ormai modificato quasi mensilmente. Chi gestisce il bilancio di un comune si trova annualmente di fronte ad almeno 70 adempimenti di rito ed imposti da organi ed obblighi esterni. Fare una gara d'appalto, continua Pileggi, significa seguire pedissequamente una serie di passaggi codificati alla lettera. E siccome le lettere non sono mai chiare, significa acquisire pareri, esplorare precedenti, richiedere chiarimenti. C'è forse qualche ambito, uno qualunque, in cui opera lo Stato che non sia nella stessa situazione? Un'immensa quantità di tempo e di denaro sprecati è il risultato di un sistema amministrativo fondato sull'incertezza del diritto, sulla moltiplicazione delle circolari interpretative e, non ultimo, su quella particolare forma di discrezionalità e di arbitrio che si maschera da atto giuridicamente dovuto. All'emergenza amministrativa hanno concorso in tanti. C'è certamente la responsabilità di una classe politica che, facendo compromessi al ribasso e accontentando ogni possibile interesse, grande o piccolo, produce leggi astruse. Ma ci sono anche molte altre responsabilità che il paese ignora o finge di ignorare, come quella dell'alta burocrazia e degli organi della giustizia amministrativa, che interpretando le norme aggiungono astruseria ad astruseria, come quelle dei consulenti giuridici, dei politici e dei burocrati, o quelle delle facoltà di giurisprudenza che formano specialisti di diritto del tutto ignari dell'impatto sociale e dei costi economici legati alla produzione e all'applicazione di norme giuridiche. Il problema si risolve con qualche riforma? Ci vorrebbe la riforma dei cervelli. Per esempio, quasi ogni burocrate e magistrato di questo paese agisce partendo dall'aberrante presupposto che tutto ciò che non è esplicitamente permesso sia vietato. La Costituzione non lo prevede in nessun modo, ma le prassi amministrative e giudiziarie, le uniche che contano nella vita di ciascuno di noi, sono ispirate proprio a quel principio liberticida. Che cosa sta dietro ad una produzione giuridica selvaggia che non conosce soste, crisi o recessioni e a questo uso distorto del diritto? Oscuri interessi? Qualche volta. Ma più raramente di quanto pensino quei nostri concittadini che vedono complotti ovunque. Il denominatore comune è dato dal fatto che chiunque interpreti o applichi la norma ha, nella schiacciante maggioranza dei casi, il problema di scegliere l'interpretazione che più lo tuteli sul piano personale, che lo renda più inattaccabile nelle sfide quotidiane della politica burocratica, della competizione all'interno delle strutture statali. Coprirsi le spalle è la regola d'oro di chiunque operi nell'amministrazione. Per questo è più sicuro assumere che sia vietato tutto ciò che non è esplicitamente permesso. Per questo è necessario ricorrere a forme esasperate di formalismo nell'interpretazione delle norme, senza preoccuparsi delle conseguenze sociali. Per questo si deve nascondere la discrezionalità negandola, travestendola, mediante l'uso di cavilli, da applicazione letterale della legge. Coprirsi le spalle è la regola da seguire dove i rapporti sono improntati alla sfiducia reciproca. E così si tocca il cuore della questione. Le società che crescono, che si sviluppano, che allargano la torta della ricchezza individuale collettiva sono, in Occidente almeno, le società in cui c'è una prevalenza di fiducia, anziché di sfiducia, nei rapporti interpersonali, nelle relazioni fra cittadini e fra cittadini e amministrazione statale. Quanto più ampio è il capitale di fiducia sociale disponibile, tanto minore sarà il ricorso alla norma giuridica, al diritto codificato, per regolare e controllare i rapporti sociali. Quando invece la fiducia sociale scarseggia o non c'è, essa dovrà essere surrogata da controlli burocratici intrusivi e dalla continua produzione di norme scritte. Le società che sperimentano assenza di crescita o declino economico sono sempre oberate da una sfiducia generalizzata e asfissiate da norme giuridiche complicate e barocche. Il cane si morde la coda. La scarsità di fiducia provoca una produzione incontrollabile di norme e un uso perverso del diritto, ma a sua volta l'uso perverso del diritto alimenta il sospetto, moltiplica i conflitti, impedisce che si ricostituisca un capitale di fiducia diffusa. Se si vuole tornare a crescere, bisogna spezzare il circolo vizioso. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Angelo Panebianco, La certezza degli abusi, dal Corriere della Sera del 3 gennaio. L'ottimismo come chiave vincente per una vita di successo. Sembra questa la conclusione alla quale è giunto il premio Nobel per l'economia Daniel Kahneman, che ha studiato a fondo questo tema. Ma attenzione agli eccessi. A volte un pizzico di pessimismo può aiutare a stare con i piedi per terra. Posso farcela. Il mondo mi appartiene. Pensano gli ottimisti a oltranza e spesso ce la fanno. In parte il loro ottimismo è da secoli la forza propulsiva del progresso umano. Ma guai quando diventa sopravvalutazione di sé e fiducia cieca. Spinge singoli individui, leader o società intere nell'illusione e nel delirio. Allora poi il risveglio è amaro. In quei casi, il freno del pessimismo si rivaluta nei fatti, come forza moderatrice, pragmatismo realista. Adesso Daniel Kahneman, un grande ricercatore israeliano, premio Nobel per l'economia nel 2002 e per paradosso pessimista di natura, ha esaminato a fondo l'ottimismo come pozione magica della vita e della storia con i suoi pregi e difetti. Agli ottimisti, nota Kahneman, appartiene o sembra appartenere il mondo. Si fanno avanti e riescono con successo nella vita meglio dei pessimisti. Affrontano e superano meglio stress, difficoltà e spesso anche malattie. Riescono persino a gestire meglio i loro matrimoni, ma anche con partner meno ottimisti. Certo è che gli ottimisti sono rappresentati in numero superiore alla media nell'elite. Inventori, scienziati, imprenditori, politici. Tutto bene finché l'ottimista non diventa sfrenato. La fiducia smisurata diventa fiducia cieca in se stessi e nella sorte e degenera in sopravvalutazione smisurata di se stessi. Allora è pericoloso. Ma come nasce l'ottimismo? Quale meccanismo psicologico? È insieme processo chimico del cervello e scelta della coscienza. Il cervello degli ottimisti opera selezioni nella memoria, conserva più ricordi positivi che negativi. Già torniamo nella zona grigia. Si tende a essere ottimisti rispetto a situazioni che si crede di poter controllare. Tutto è vedere quanto puoi veramente controllarle e influenzarle o no. C'è anche qui un rovescio della medaglia. L'ottimista tende a sopravvalutarsi un po', anche per presentarsi meglio al prossimo e riuscire meglio nella vita. Chi lo ha e chi lo sa usare meglio nella vita? Non poco dipende dalle origini sociali, dall'infanzia. Un'infanzia felice, prospera, con un buon background culturale è precondizione ben migliore del contrario, ovviamente. Vero, ma non certo strano. Ma è anche vero che ci si può aiutare incoraggiandosi, con attitudine positiva. L'ottimismo come energia collettiva ha poi a che fare con la capacità di apprezzare e realizzare con fiducia se stessi. Ma anche qui, troppo ottimismo è pericoloso. Quando un imprenditore sottovaluta i concorrenti o quando una nazione si abbandona al delirio collettivo. In questi casi, il pessimismo a dosi moderate è un antidoto efficace. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Tarquini, Ottimismo, la pozione magica che muove il mondo. Ecco le regole per pensare positivo, dalla Repubblica del 2 gennaio. Quali sono stati i grandi cambiamenti globali del 2011 e quale sarà il loro impatto sull'anno appena iniziato? Il libro dell'anno 2011, in vendita in abbinamento al Sole 24 Ore, analizza gli avvenimenti che hanno caratterizzato l'anno che si è appena concluso, lanciando alcune previsioni per il 2012. Sarà un anno segnato dalla recessione, quello che è appena cominciato. La domanda, ha detto nei giorni scorsi Alessandra Lanza, presidente del gruppo Economisti d'Impresa, non è se siamo o meno in recessione, ma se possa essere così profonda come quella del 2009. Insomma, non una questione di segno, ma di quantum. Innescata questa volta dalla crisi del debito sovrano, la debacle dei mercati finanziari si è trasferita, come era prevedibile, all'economia reale. La cinghia di trasmissione è ancora una volta il credit crunch, la mancanza di liquidità che impedisce alle imprese di accedere al credito bancario. Sarà dura soprattutto la prima parte dell'anno, almeno fino alla tarda primavera, in cui si sconteranno anche gli effetti recessivi delle recenti manovre, in particolare l'ultima affidata dal Parlamento a ridosso di Natale. Ma c'è da chiedersi come si sarebbe evoluta la situazione senza questo intervento che, almeno per ora, sta contendendo il differenziale di rendimento dei BTP rispetto ai Bund entro limiti, se non proprio sostenibili, quantomeno non soffocanti. Nella seconda parte dell'anno è previsto un parziale recupero, ma questo non basterà a chiudere l'anno con il segno positivo davanti alla voce PIL. L'ultima stima, forse per questo la più pesante, è quella del Centro Studi Confindustria, che prevede un calo dell'1,6% nel 2012. Molto dipenderà da come i governi europei e le istituzioni comunitarie riusciranno a blindare la moneta unica e soprattutto la governance economica dell'Eurozona, ma anche dalla capacità di attivare, insieme al rigore sui conti pubblici nazionali, meccanismi di sviluppo dell'economia in grado di generare crescita e occupazione. Una volta individuati, cosa già non semplice di per sé, richiedono capacità di realizzazione e in ogni caso è illusorio aspettarsi effetti concreti immediati. In economia non esistono bacchette magiche. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giorgio Chiellini, Il macigno della recessione e i tentativi per ritrovare la crescita, da Il libro dell'anno 2011, in vendita per tutto il mese di gennaio in abbinamento al Sole 24 Ore.